Viva l'Italia! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Luoghi d'Italia di Stefano Brambilla. Buongiorno e bentrovati a Luoghi d'Italia, la trasmissione di Radio 24 che vi porta alla scoperta del bel paese sconosciuto. Io sono Stefano Brambilla, sono un giornalista del Touring Club Italiano e proprio in questi giorni esce in edicola un numero di speciale qui Touring, il nostro bimestrale interamente dedicato al Piemonte. Così, indagando un po' sul campo alla ricerca di storie poco note, sulla rivista ne trovate veramente tante, ci siamo imbattuti in misteriosi ululati. Ululati in Piemonte? Ci direte, che cosa c'entra il lupo con il Piemonte? Eppure c'entra molto, e a tal punto che nel Parco regionale delle Alpi Marittime, in provincia di Cuneo, è stato appena inaugurato un nuovissimo centro chiamato proprio Uomini e Lupi. Che cosa sia questa novità lo chiediamo al vice direttore del parco, Giuseppe Canavese. Buongiorno Canavese. Buongiorno. Allora, Uomini e Lupi in Piemonte, ci spiega come mai? Beh sì, nasce dal fatto che in Piemonte ormai da oltre una decina d'anni è ritornato il lupo. Quindi ritornando il lupo sulle Alpi, sostanzialmente il Parco Alpi Marittime ha incominciato ad affrontare il problema. Ed uno dei problemi fondamentali era proprio quello di far conoscere il lupo. Da qui, per far conoscere il lupo, abbiamo costruito questo centro. L'arrivo del lupo in una comunità, ricordiamo, non è mai una, come dire, una cosa di tutti i giorni. Bisogna anche sensibilizzare la popolazione e far capire perché il lupo è importante, giusto Canavese? Beh, sicuramente sì, perché l'arrivo di un predatore in un areale dove per moltissimi decenni non era più presente ha creato sicuramente dei problemi. Problemi con delle attività tipiche dell'ambiente alpino, quindi la pastorizia soprattutto. E quindi il lavoro del parco, unitamente alla regione Piemonte, è stato quello appunto di riuscire a fare un progetto che ricercasse questa possibile convivenza tra uomo e lupo. Il lupo, ricordiamo, è arrivato, è ritornato dagli Appennini, risalendo un po' tutta la catena appenninica, arrivando fino in Piemonte, e ora è andato anche bene al di là del Piemonte. Ma noi ci fermiamo al Parco delle Alpi Marittime e raccontiamo un po' questo centro Uomini e Lupi, che è un grande progetto. In cosa consiste? Sostanzialmente ha due strutture che rivestono un grande interesse. Una è un'area faunistica di oltre 8 ettari in cui attraverso un tunnel e una torretta i fruitori possono avvicinarsi a conoscere il lupo e da vederlo, perché all'interno dell'area abbiamo ricoverati degli animali. Una seconda parte, quella invece in un centro visita ad Entracque, si può scoprire tutto il rapporto che c'è tra uomo e lupo e quindi indagare un pochino i problemi di questa convivenza non facile. Vi assicuriamo che l'esperienza è davvero bella perché è ben combinata e tra l'altro ben congegnata anche a livello interattivo, multisensoriale, i bambini ne sono sicuramente affascinati. Ricordiamo dov'è questo centro, a Entracque. Entracque è a pochi chilometri da Cuneo, un po' alla porta del Parco delle Alpi Marittime, giusto? Sì, proprio a pochi chilometri da Cuneo, un 25 chilometri da Cuneo. Si arriva direttamente all'interno del parco. Nei suoi comuni, nella Valta Valle Gesso, i comuni di Entracque e Valdieri sono quelli due comuni principali in cui è racchiuso veramente il parco. Montagne ancora, si può dire, se anche se l'aggettivo è un po' abusato, incontaminate, ma nel senso che molto meno visitate o sfruttate rispetto a tante altre zone delle Alpi. Che paesaggi protegge il parco e perché è importante questo territorio? Ma le Alpi Marittime sono state recentemente individuate come scrigno della biodiversità dell'intero ambiente alpino, perché qui nelle Alpi Marittime troviamo veramente l'incontro tra alte montagne, pensiamo che abbiamo i ghiacciai più meridionali dell'arco alpino, con il mare, a 35 chilometri abbiamo il mare, quindi l'incontro mare-montagna, l'incontro Appennino-Alpi, l'incontro tra un massiccio cristallino e tutta una copertura sedimentaria fa sì che veramente sia un habitat eccezionale. Qui abbiamo iniziato questo lavoro di inventario biologico proprio per riuscire a censire tutte quelle che sono queste eccezionalità di questo ambiente. Parliamo anche di flora, che spesso viene passa in secondo piano rispetto alla fauna, ma di flora che il Parco Alpi Marittime vanta come una delle flore più importanti delle Alpi, proprio a livello di ricchezza e di numero di specie. Sicuramente sì, perché abbiamo 13 endemismi esclusivi, molti portano il nome della montagna principale, quindi Viola Argenteria, oppure dei comuni, Viola Valderia. Quindi abbiamo veramente, proprio perché queste montagne hanno le caratteristiche che dicevo prima, quindi alte montagne del mare, raccolgono veramente un mare di specie veramente tipiche ed esclusive di questo ambiente. Ecco, al turista che viene a visitarvi, che entra nel Parco Alpi Marittime, a parte consigliargli di andare a vedere il Centro Uomini e Lupi nelle sue due sedi, che cosa suggeriamo di andare a vedere, magari quali escursioni per chi viene per la prima volta? Ma l'offerta è veramente ampia, si parte da ambienti di grande valore storico, culturale. Abbiamo un ecomuseo della Segale a Sant'Anna di Valdieri, abbiamo moltissime aree attrezzate sparse nei fondovalle per ospitare i fruitori, e da qui poi centinaia e centinaia di chilometri di sentieri che ci portano in posti veramente incontaminati, veramente belli da percorrere. Per tutte le persone, per tutte, agli anziani, ai giovani, a coloro che vogliono praticare attività più sportiva. Quindi c'è veramente un'offerta generalizzata per tutte le categorie di persone. Tra l'altro anche ci sono dei bellissimi rifugi ideali per chi vuole dormire in quota e avvicinarsi ancora di più all'ambiente alpino, magari potendo vedere gli animali al tramonto, all'alba, che spesso si avvicinano. Ricordiamo che il parco ospita ovviamente grande fauna alpina come stambecchi, camosci e altri ungolati. Canavese, un posto che lei ama particolarmente, per concludere, proprio se lei ne dicesse uno? Beh, sicuramente i passaggi più interessanti verso il vallone del Praiet, attraverso il colle di Fenestrelle, arrivando al rifugio Soria, oppure nell'altro settore del parco, il giro del Valasco e dei laghi di Valle Scura, che sono posti veramente frequentatissimi in un ambiente stupendo, ricchi di laghi, di acque, di montagne, veramente da apprezzare, da vedere. Condividiamo, invitiamo tutti gli ascoltatori a scoprire le Alpi Marittime, ringraziamo il vice direttore e gli auguriamo buona giornata. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Se canto che cante, canto per you, canto per mami mio che sta luente you. Erano i Ludalfin che ci introducono alla seconda parte di questa puntata, e come avete sentito non era italiano la lingua in cui cantavano Se Canto, ma occitano, perché quest'angolo di Cuneese al confine con la Francia è terra occitana. Che cosa sia l'Occitania non possiamo che chiederlo a Rosella Pellerino, responsabile dei progetti linguistici per Espacio Occitan. Pellerino, buongiorno. Buongiorno a voi, bentrovati. Allora, Occitania, terra occitana, e lei lavora per Espacio Occitan, ci fa un attimo il riassunto della situazione? Sì, la regione occitana è una regione linguistica che si estende su tre stati, una piccola regione della Spagna sui Pirenei, il sud della Francia con delle regioni famosissime, la Guascogna, il Delfinato, la Provenza, il Languedoc, che prende il nome proprio dalla lingua doc che vi si parla, e 14 valli in Italia che si trovano in provincia di Cuneo e di Torino, e una piccolissima propaggine in provincia anche di Imperia. È quindi una regione caratterizzata da una comune lingua che è appunto l'occitano, una lingua neolatina che è nata insieme all'italiano, al francese, ed è stata la lingua dei trovatori dall'VIII, IX secolo d.C. fino ai giorni nostri, perché è ancora una lingua tuttora parlata ed utilizzata nella vita di tutti i giorni. Per questa ragione sono nate molte associazioni di tutela per continuare appunto a diffondere e valorizzare questa parlata, e una di queste è proprio l'Espacio Occitan, per il quale appunto mi occupo di corsi, di pubblicazioni, di traduzioni, in modo da appunto poter continuare anche nel terzo millennio a parlare questa nostra lingua. Ecco, che cosa fa poi praticamente Espacio Occitan, un'associazione come la vostra, per mantenere viva una lingua che tende o c'è il rischio che scompaia? Abbiamo realizzato dei dizionari di lingua occitana, soprattutto nella varietà delle valli alpine. Facciamo dei corsi in presenza, facciamo da 6 anni oramai dei corsi online per raggiungere anche quelle persone che sono appassionate di lingua e cultura ma che non possono fisicamente raggiungere la Valle Maira. Organizziamo dei festival musicali, perché la musica è un veicolo empatico formidabile, eccezionale, per raggiungere anche chi appunto non si sente di iscriversi a un corso, di apprendere le regole grammaticali e ortografiche, ma vuole comunque avere insomma qualche contatto con la nostra cultura. Abbiamo organizzato poi anche delle manifestazioni legate invece all'arte, alla valorizzazione di quelle che sono le manifestazioni storiche, le manifestazioni culturali, le feste che caratterizzano il nostro territorio. C'è anche un museo multimediale proposto da Espacio Occitan, giusto? Sondelenga. Sì, l'Espacio Occitan fisicamente ha una biblioteca e una mediateca con migliaia di volumi in lingua occitana o sui territori occitani, e poi ha un museo che è multimediale, informatizzato, è un museo diciamo complementare a tutti i musei molto interessanti che già si trovano sui nostri territori, che sono musei etnografici principalmente, e invece nel nostro caso attraverso dei computer, attraverso delle animazioni, attraverso delle videoproiezioni andiamo a presentare per i turisti, per le scolaresche, quelli che sono proprio gli aspetti peculiari che molto spesso le persone non conoscono. Dicevamo prima che Espacio Occitan ha sede in Valle Maira, che è una valle poco a nord del Parco regionale delle Alpi Marittime, di cui abbiamo parlato prima. Valle Maira, che tra l'altro è stata portata alla cronaca recentemente grazie a un film di Giorgio Diritti, Il vento fa il suo giro, che quindi qualcuno si ricorderà. Diciamo due consigli al turista che viene in Valle Maira: che cosa può trovare, che cosa può scoprire? Ma è una valle piuttosto articolata, eterogenea, quindi sicuramente per chi ama le curiosità geologiche potrei consigliare di andare a Villar San Costanzo a visitare i Ciciu del Villar. Sono delle formazioni geologiche che, come le Demoiselles Coiffées della zona del Delfinato, sono degli enormi funghi. In occitano Ciciu vuol dire fantoccio, proprio perché il corpo di sedimento è sormontato da una lastra in pietra molto ampia che li fa somigliare a degli enormi funghi porcini. I percorsi occitani, che sono una rete sentieristica che porta appunto dalla bassa Valle Maira, quindi dai 600 metri sino ai 2000 metri delle borgate alte di Acceglio, quindi una possibilità per chi ama l'escursionismo e la natura. Abbiamo tutta una serie di cappelle e di chiese del periodo romanico gotico che abbiamo valorizzato tramite un progetto che si chiama Mistà e che appunto ha visto il restauro, il recupero conservativo di questi beni appartenenti al periodo tra il 200 e il 500 nelle valli Maira, Grana, Varaita e Po, e abbiamo veramente dei piccoli gioielli di architettura e della pittura del gotico nelle nostre valli, quindi sicuramente una visita non può mancare, la visita a Elva ad esempio, agli affreschi del fiammingo Hans Klemmer, ma anche una visita alla danza macabra nella cappella di San Pietro di Macra, l'unica danza macabra che si è conservata nella zona del Piemonte meridionale. Sono sicuramente da visitare anche poi i musei legati ai mestieri tradizionali della Valle Maira, due mestieri itineranti come quello degli acciugai. Noi che non abbiamo il mare, a piedi percorrendo i colli andavamo a prendere i blocchi di sale e le acciughe al mare, che poi venivano venduti nei mercati oppure attraverso appunto un'attività itinerante porta a porta. E i cavier, i chabelier, ovvero i mercanti di capelli, i raccoglitori di capelli che erano di Elva, e proprio a Celle Macra e Elva sono nati i due ecomusei legati a queste attività tradizionali, oggi naturalmente non più esercitate, ma ancora molto molto affascinanti. Abbiamo capito che c'è ben più di un motivo per andare a visitare la Valle Maira. Ringraziamo Rosella Pellerino per essere stata con noi, ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che quest'estate hanno seguito Luoghi d'Italia. Questa era l'ultima puntata, un arrivederci a presto da Stefano Brambilla e buona giornata.